Carissimi, ancora una volta vi rinnovo l'invito a venire in chiesa con curiosità, avendo nel cuore questo pensiero: andiamo a sentire che cosa oggi ha da insegnarmi il Vangelo, che cosa ha da insegnarmi Gesù. Penso che voi sappiate che Gesù durante la sua vita era chiamato con diversi nomi: il Nazareno, perché è vissuto a Nazareth, il figlio del falegname, perché era, credevano, figlio di Giuseppe e aveva lavorato in bottega con lui. Ma Gesù era chiamato Gesù, il Cristo, era chiamato anche il Maestro, perché insegnava, e insegnava Dio, insegnava la fede in Dio. Per essere maestro era un maestro completo, insegnava anzitutto con la sua vita, perché un vero maestro, prima di dire, si comporta. E tutta la vita di Gesù è stato un insegnamento. Già il fatto che è nato in una famiglia, venendo dal cielo, ha scelto di nascere in una famiglia e non di comparire miracolosamente all'improvviso, già questo è un insegnamento, che Gesù puntava tutto sulla famiglia. Capirai che insegnamento. Poi Gesù ha parlato molto, ha insegnato con le sue parole. Basterebbe scorrere il Vangelo, leggere le beatitudini, leggere i comandamenti che lui ha dato. Ma non ha insegnato solo con la sua vita e con le sue parole, con i suoi insegnamenti. Ha insegnato con altri due modi, con le parabole, e noi quest'anno sentiremo diverse parabole. Le parabole sono degli esempi per far capire meglio quello che vuole insegnare. Ma Gesù ha insegnato tantissimo anche con i miracoli. Perché quando Gesù compiva un miracolo, non è perché voleva risolvere tutti i problemi del mondo. Se per esempio ha fatto il miracolo della moltiplicazione dei pani, non è perché voleva risolvere la fame nel mondo, perché non l'ha fatto. Voleva con questo miracolo insegnare che lui era il padrone anche della natura. Quando ha calmato la tempesta sul lago, comandando al vento e all'acqua di calmarsi, ha dimostrato che lui era il padrone della natura e ha fatto altri miracoli sulla natura. Poi ha fatto alcuni miracoli sulle persone. Quando ha guarito un cieco, ha guarito un sordo. Quando ha guarito una persona paralizzata, voleva dimostrare che lui era padrone anche della malattia. Lui era il creatore, il signore di tutto. Ma i veri miracoli che Gesù ha fatto sono stati i miracoli sul cuore delle persone, convertire le persone, come quando ha convertito Zaccheo, che si era arrampicato su un albero per cercare di vedere chi fosse Gesù, e Gesù gli ha toccato il cuore così tanto che si è convertito. Oppure quando ha convertito la samaritana, una donna che era stata con 5 uomini, e alla fine Gesù le legge nel cuore e la converte e le cambia vita. Anzi, i miracoli veri che Gesù voleva fare non era dar da mangiare, risuscitare Lazzaro, risuscitare una bambina morta, guarire il bambino di cui abbiamo sentito parlare nel Vangelo di oggi. Questi erano solo dei segnali, dei segni. Infatti il Vangelo di Giovanni oggi dice: questo fu il secondo segno che fece quando tornò in Galilea. Anzi, Gesù aveva sì a cuore la salute della gente, ma aveva soprattutto a cuore l'anima. Tant'è vero che un giorno gli portano un uomo su una barella, era paralizzato. E glielo pongono lì davanti, addirittura hanno sfondato la terrazza. Era una terrazza non fatta in cemento armato, certamente. Era una terrazza fatta con materiale che si poteva rompere, legno, canne di bambù. Gli mettono lì questo uomo paralizzato e Gesù gli dice: ti perdono i tuoi peccati. Immaginate lo stupore della gente. Quelli che gliel'hanno portato sono rimasti delusi, perché gliel'hanno messo lì aspettandosi che lo guarisse. Ma sono rimasti anche meravigliati gli scribi e i farisei che hanno detto: ma come ti rimetto i peccati? Ma tu sei Dio? È solo Dio che può rimettere i peccati. Allora Gesù, per far capire chi era lui, era un segno, gli ha detto: guarda, io ti guarisco, ti dico di camminare, così voi, vedendo un miracolo visibile, capite che io sono capace anche di fare il miracolo di rimettere i peccati. Allora, salta su, prendi la tua barella e vai a casa. E quest'uomo fa così. Capite, amici, questo è un passaggio importantissimo da riferire alla nostra vita. Perché altrimenti noi oggi diciamo: e perché Gesù non fa più i miracoli ancora oggi? Perché Gesù, io sento tanta gente che dice: io non vengo più in chiesa, mi dice una ragazza che stavo preparando al matrimonio, non vengo più in chiesa perché Dio ha fatto morire mio papà che era ancora giovane. Io ho pregato, ma non l'ha salvato, io non vengo più. Io non credo più in Dio. Oppure una mamma, cosa gravissima, che perde un figlio e non capisce più niente, dice: ma Dio non c'è, se Dio ci fosse non avrebbe permesso tutto questo. Capite perché dobbiamo comprendere bene cosa sono i miracoli, che sono dei segni? Perché Gesù non ha fatto tutti i miracoli possibili, anzi, a ben guardare, non ha guarito neanche se stesso. Era in agonia nell'orto degli ulivi e dice: Signore, ti chiedo, allontana da me questo calice della passione. Ma Dio non glielo allontana, Dio lo manda ugualmente a morire. E allora Gesù dice: però non quello che voglio io, ma quello che vuoi tu. Cari amici, noi possiamo chiedere tutto a Dio, possiamo chiedere anche i miracoli, purché facciamo come ha fatto Gesù. Signore, ti chiedo questa guarigione, ti chiedo questo miracolo, ti chiedo questo prodigio, però se tu vuoi, non ciò che voglio io, ma ciò che vuoi tu. Amici, questo è un passaggio importantissimo. Gesù è nostro maestro. Gesù nel Vangelo ci fa capire che gli sta a cuore la nostra salvezza, ma gli sta a cuore soprattutto la nostra anima. Tant'è vero che noi nel credo diciamo una parola importantissima: aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Cioè, nel credo, noi lo ripeteremo anche dopo, diciamo: Signore, noi ci teniamo molto alla nostra vita, ma questa vita qua giù non è l'ultima parola, è la penultima parola. L'ultima parola sarà la nostra morte e la nostra risurrezione, perché così hai fatto tu, Gesù. Capite, amici, perché si viene in chiesa la domenica? per imparare da Gesù il Maestro. Queste cose il mondo non ce le dice. Il mondo è capace solo di arrabbiarsi contro Dio quando succede un disastro, quando succede un cataclisma. Ma se Dio fosse Dio avrebbe... Ma perché Dio ha permesso i campi di sterminio? Allora Dio non c'è. E Dio ha permesso che anche suo figlio fosse ammazzato in croce. Coraggio allora, amici. Domenica dopo domenica ci mettiamo alla scuola del Maestro Gesù.